Yeah. Tu fai come ti riesci a capo, tu sai come mi fa ingazzare. Tu aspetta che ti aspetta a baci un'ora. E te si mi defidata, si bella appena discedata. Si una stella che non ha mai brillato. Tu sei una pistola sempre carica e pronta. Tu sei fosse mare, fosse forse l'onda. Tu sei un palazzo che solo fa l'ombra. Tu sei facendo che si cara a fondo. Ti ci dedicato tutto in fase lunare. Perché è l'unica cosa che ci rende distante. Noi cerchiamo solamente il bene e il male. Perché ci piace così. Dopo che mi accendo, tu sei a finestra di questa scena. Sì che la lettera da tutti io non aspetto. Essere noi è complicato. Mi si ma fossero magnitudo. Quando mi abbraccio sono al sicuro di te. E se giove non fa niente. Mi si ma abituato. E se torno male di tu sei l'arco balena. Recuerde.